Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Per andare in cucina, Anastasia dovette uscire in un corridoio largo e spoglio, sul quale davano tutte le quattro stanze della casa, illuminato in fondo, dove finiva da una finestra su un giardino. Adesso quella finestra era spalancata e il telaio, malamente verniciato di bianco, inquadrava un cielo di un azzurro cupo, così liscio e splendente da sembrare falso. C'era una bellezza enorme nell'aria quella mattina e al confronto le case e la vita degli uomini si rivelavano stranamente misere, logore. Un vero mostriciattolo, poi, sembrò agli occhi turbati di Anastasia la zia Nana, che era curva a lavare il pavimento. Questa donna, sorella maggiore della madre, dopo una gioventù inerte, piena di cose futili, in attesa continua di marito, poco alla volta, come succedeva tra le donne della piccola borghesia, aveva dovuto rassegnarsi a una vita servile, silenziosa in casa della sorella maritata. E cresci questo bambino, e cresci quell'altro, per occupazioni e pensieri personali non c'era stato più tempo. Con gli anni era diventata quasi del tutto sorda, così da non afferrare più quei rimbrotti e quelle risate che si facevano di tanto in tanto a suo riguardo. La sua passione erano i giornali, che la sera leggeva avidamente, soffermandosi soprattutto sulle cronache passionali, sugli avvenimenti amorosi di maggior rilievo. Suicidi, omicidi per amore, ferimenti, ratti, quando non erano, come preferiva, fidanzamenti di personalità illustri, nozze di principi, di regnanti, e insomma il lusso e la bellezza del mondo confusi con la felicità della carne. Allora si illuminava tutta in quel suo volto gonfio e contraffatto di un giallo marcio, che faceva apparire ancora più neri e splendenti quei suoi terribili occhi di donna che non è riuscita a vivere, e lo potrebbe ancora, e la si sentiva ridacchiare tutta sola. «La gioventù, la gioventù, che allegria!» Di statura era sempre stata bassa, ma ora sembrava più che bassa, raccorciata e contorta, come certi alberi antichissimi nel cuore di qualche foresta. Vestiva sempre di nero e la domenica e i giorni festivi si metteva un po' di rossetto al centro delle guance. A vederla, Anastasia si sentì aumentare quella tristezza troppo confusa per essere definita, quel disgusto insieme a quella pietà di sé e della vita che viveva, quella sorda ansia di un giorno più dolce che le aveva parlato all'orecchio e disse: «Ma proprio questa mattina dovevate fare questo traffico, zia Nana. Ma non sentite che freddo?» «Bello, bello!» rispose la Nana alzando umilmente tutta eccitata gli occhi alla finestra. Aveva capito. Bel tempo. «Bellissima giornata!» disse. «Proprio fatta per la gioventù!» E abbassò di nuovo la faccia sul pavimento. Un tempo avrebbe invidiato Anastasia per la sua statura e i suoi bei vestiti. Era piena di stizia e meschinità da giovane, ma la vita, confinandola nei suoi più bassi posti, aveva avuto ragione di quei difetti. E adesso non c'era persona più umile della Nana e disposta a saziarsi della felicità altrui. Per Anastasia poi provava una vera adorazione. Era infine Anastasia, col suo lavoro, che la manteneva, e chissà dove sarebbe finita lei, povera Nana, se Dio non avesse benedetto il lavoro di Anastasia. Nella sua stanza, squallida e fredda come quella della sorella, e così sommariamente ammobiliata, Edoardo, il fratello maggiore, si stava facendo la barba davanti a uno specchietto attaccato alla finestra. Alto come Anastasia e orribilmente magro, aveva il petto incavato come la luna di tutti quelli della sua razza. Ma adesso era guarito, benché qualcosa di nascosto lo sputasse ancora. E anzi, stava pure per sposarsi, senza contare che gli avevano promesso un posto di avventizio al municipio. Si raccomandò con voce stridula, avendo visto la sorella passare nello specchio. «Anastasia, le mie camicie!» «Ma sono già stirate», rispose Anastasia, «vicina alle calze». e stava per tirare avanti quando si accorse, come la vedesse la prima volta, della sua schiena così lunga, di quella figura appiattita e senza vigore, e le venne in mente qualche ragno mezzo essiccato che dondolava talora da una ragnatela e pareva al vento si muovesse, e poi si capiva che era solo una larva. Edoardo viveva solo in apparenza una vita da uomo. Eccolo, a vederlo farsi la barba e chiedere con voce stridula le sue camicie, era un uomo. Cadendole lo sguardo sui due eletti, quello di Edoardo e l'altro di Petrillo, si ricordò che fra due mesi sarebbero stati sostituiti da un unico letto grande. Le spese del mobilio erano di Dora Stassano, che lavorava da sarta guadagnando abbastanza bene, ma anche Anastasia vi avrebbe contribuito, e i figli che sarebbero venuti, con la schiena lunga e la faccia da piccoli cavalli vecchi, Dora Stassano e lei avrebbero dovuto mantenerli. Anna, invece, non faceva un matrimonio così buono, perché Giovannino Bucca, il commesso, avrebbe guadagnato sempre poco. Ma la madre, vista la salute delicata di lei e temendo la morte non la portasse via prima che potesse godersi qualcosa, aveva tenuto ad accontentarla. E i piccoli figli, dalla faccia bianca come una rosa d'inverno e gli occhi un po' sporgenti e stupiti, solo Anastasia, aiutata da quel commesso, avrebbe dovuto portarli avanti. Ma su questo particolare non si fermò. Come un cavallo da tiro alla sensazione che il suo carico cresce di minuto in minuto e le zampe gli si piegano, ma gli occhi miti non riescono a guardare indietro, così lei non vedeva da quale parte fluisse questa enorme e inutile vita su lei, e solo sapeva questo, che doveva portarla. Pensò un momento come saranno diverse a primavera le stanze di questa casa. Qui è Edoardo con Dora, nella camera delle sorelle Anna col marito. Lei, Anastasia, sarebbe passata a dormire con la madre, mentre Petrillo si sarebbe aggiustato un lettino nella stanza da pranzo. Una volta, quando il padre viveva, questi mutamenti nessuno li avrebbe previsti. Non si pensava neppure che sposandosi Edoardo e Anna sarebbero rimasti in casa. Ricordò di colpo come le piaceva la sua stanza quando era più giovane e le chiacchiere interminabili con Anna da un letto all'altro, le notti di estate, con la luna sui piedi, le risatine sommesse, facendo questo, quel nome d'uomo, inavvertitamente, ecco, quel brusio era cessato. Mentre passava davanti alla scatola nera del telefono interno, quello chiamò. «Pronto!» disse Anastasia. «Qui ci sta la fidanzata di vostro fratello!» avvertì dal passo la voce della portinaia. La fidanzata ufficiale in quella casa, perché della ragazza di Petrillo ancora non si sapeva che tipo fosse, era Dora Stassano. Perciò Anastasia disse subito «Dora Stassano, buon Natale a te e a tutta la famiglia!» «Ma chi è, Doruccia? Dille di salire!» gridò Edoardo col pennello in mano, girando gli occhi spiritati. «Dice Edoardo, se vuoi salire!» riferì Anastasia. E dopo un momento «Sì, ti aspettava, siamo tutti a casa, anche Anna e Petrillo!» lasciò il telefono. «Sta salendo!» disse rivolta verso la stanza di Edoardo. In cucina il fuoco era acceso in tutti e quattro i fornelli del focolare. Il carbone, il gas veniva adoperato solo per il caffè, non era bastato e la signora Finizio aveva dovuto aggiungere della legna che aveva riempito di un fume acre il locale. Un raggio di sole, entrando dalla finestra aperta, faceva ondeggiare lievemente quella massa di velo grigio in cui brillavano milioni di puntolini colorati. Con gli occhi rossi, mezzo chiusi, tanto le bruciavano, la signora Finizio, una donnetta vispa, tutt'osse, con i capelli rossi e un volto amoroso e astuto, si muoveva con agilità incredibile, dati i suoi 58 anni, da un fornello all'altro. Vedendo Anastasia, gridò «Per favore, figlia mia, dà un'occhiata al brodo mentre io finisco di impastare!» Le sembrava qualche volta che Anastasia perdesse tempo in cose futili, ma non osava protestare apertamente, parendole che quella specie di sonno in cui la figlia era immersa e che permetteva a tutti di vivere ed espandersi tranquillamente da un momento all'altro per un'inezia si sarebbe potuto spezzare. Non aveva nessuna simpatia per Anastasia, il suo amore era Anna, ma ne apprezzava l'energia e la docilità insieme, quello spirito pratico unito a tanta rassegnata freddezza. Si stupiva sempre che la figlia fosse così rassegnata, ma certo rientrava nei disegni di Dio. Anastasia andò a prendere un grembiule appeso tra le scope, dietro una porta, e se lo allacciò davanti. Ma invece di accostarsi al focolare, andò a lavarsi le mani dell'acquaio e disse: «Guardate voi al brodo, mamma, che a impastare ci penso io». «Ti ringrazio, figlia mia», disse la madre con un rapido sorriso. E per un momento rimase a guardarla, mentre immergeva le mani grandi in quel laghetto di acqua e farina, provando quel senso oscuro di compassione, di festa, di rimorso e allegria, che sempre la prendeva osservando la perfetta, inalterabile bruttezza di Anastasia, quei lineamenti rigidi e privi di qualsiasi espressione, come quelli di una forchetta. Andava comparando silenziosamente quella bruttezza col ricordo che aveva di sé, ragazza, e con l'immagine stessa, così luminosa nella sua debolezza, di Anna, e sorrideva senza saperlo. «Tua sorella niente vuole fare», disse forte. «E Anna è giovane, mamma», rispose Anastasia senza levare il capo, quasi avvertisse quello sguardo. «Poi non sta mai troppo bene». «Ah, questo è pure vero», rispose la Finizio commuovendosi, e soggiunse con una malinconia e uno slancio: «Tante volte mi dico, ma che sarà di quella figlia mia il giorno che Anastasia vorrà sposarsi? Basteranno a proteggerla gli occhi del marito? Perché una volta o l'altra quel giorno può venire». «Voi scherzate, mamma», rispose Anastasia con voce appena alterata. «Io non sono bella». La Finizio sorrise ancora. E come Anastasia, guardandola, aveva interpretato male quel sorriso, non volle deluderla e cambiò discorso. «Dopo pranzo viene a trovarci Don Liberato, me lo ha fatto dire dalla serva. È arrivata da Salerno. Saluti a noi, credo che Donna Amelia sia veramente male». «Il Signore abbia misericordia di lei», si limitò a dire Anastasia. La Finizio non era mai tranquilla. Così come le braccia, il pensiero non le stava mai fermo e aveva bisogno di smuovere o anche addentare ora questo argomento, ora quello. Perciò, dopo aver dato un'occhiata al brodo, si voltò e disse: «Ho saputo poi da Laurano che ieri sera è tornato il figlio da Genova. Non te lo volevo dire pensando che ne avresti male. Pare che sia pure fidanzato». Rimase zitta a osservare il lungo volto della figlia, che nello sforzo di dominarsi si era fatto orribilmente duro e sgradevole. Un sorriso finissimo allungava ora le labbra della Finizio. Aveva finito presto d'essere giovane lei, e non perdonava facilmente chi voleva sottrarsi alla legge che lei aveva subito. La irritavano continuamente le intenzioni segrete, la mancanza di umiltà di Anastasia, quel vederla vivere così indipendente, quasi una signora, mentre lei conduceva una vita servile. «Meglio così, non è vero?» insisté. Anastasia non rispose nulla. Andò alla credenza per prendere della farina e per qualche momento, pur desiderandolo, la Finizio non poté vederla in volto. Ma già sapeva che l'aveva colpita abbastanza. «C'è permesso? Che fumo! Buon Natale a tutti!» Dora Stassano, sulla soglia della cucina, mostrava il suo volto di popolana, magro e ardito, e la pelle color oliva fatta più verde dal rosso della sciarpa. «Posso dare una mano?» «Sciò, gridò comicamente la Finizio. Era un poco pentita di quanto aveva detto ad Anastasia, ma l'allegria rimaneva. «Fuori tutti! Mia figlia e io, quando lavoriamo, non vogliamo impicci!» Dietro la Stassano, una piccolina con un gran mantello verde bandiera, guarnito di un filo di pelliccia dorata, guanti e scarpe verdi, si intravedeva la testa bionda incantata di Anna e il brutto volto sorridente di Edoardo. «Mamma! papà, ci fate vedere il dolce?» chiese Edoardo. «Tu spicciati se non vuoi perdere l'ultima messa!» gli gridò la Finizio. «Ah, questa mia famiglia si sta riempendo di eretici!» disse rivolta alla Stassano. «Salva Anastasia, che non manca mai ai suoi doveri di cristiana, e ogni mattina fa una capatina in chiesa prima di aprire il negozio, voglio sapere chi onora a Dio in questa casa. Eccolo là, a 30 anni ha bisogno che lo portino per il collo all'ultima messa. E i fratelli seguono l'esempio. Almeno tu, d'ora Stassana, hai fatto il tuo dovere.» Stanotte eravamo tutti in Santa Maria degli Angeli, se è per questo», rispose la ragazza. «Bene, bene!» Come la nana, anche la Finizio stava diventando un poco sorda e perciò diceva anche le cose più delicate a voce alta. «La chiesa era piena che si asfissiava», proseguì la Stassano con l'accento compunto e malizioso di chi dice cose di cui in sostanza non gli importa, ma che altri ama credere. «Voi non vi ho vista, mamma, dovevate stare più avanti. Ho visto invece le torri, poi donna Amelia col fratello e la cameriera dietro, e quando c'è stata l'elevazione donna Amelia si è messa a piangere. Più avanti c'erano i Laurana al completo col figlio.» Vi fu un breve silenzio a quella parola figlio. Il pensiero che donna Amelia, una sua buona vicina, fosse agli ultimi giorni, era gravemente ammalata di cuore, commuoveva e insieme rallegrava la Finizio, che nella sua grama esistenza traeva dall'avvilimento degli altri un'oscura consolazione, e infatti esitò un momento se fermarsi su quell'argomento oppure sul secondo. Ma il secondo era più importante. Non si sentiva ancora tranquilla circa i sentimenti di Anastasia. «Così Antonio è veramente tornato!» gridò. «Mi fa piacere! E si sposa!» A questa domanda, chissà perché, nessuno rispose. Il fumo nella cucina brillava come fosse oro, perché un raggio sottile di sole lo attraversava. C'era una sensazione di felicità e di attesa in tutti, anche, malgrado sembrasse impossibile, nella infelice Anastasia. Ed ecco, in quel raggio di sole, farsi avanti, quasi strisciando sul pavimento, il corpo orrendo, la faccia ceria e sorridente della nana. Con comici gesti, appoggiandosi al suo bastone da uomo, accennava che era venuto qualcuno. Come un cane, umile e contenta, tirava per il vestito l'immobile Anna. Questa capì alla fine. «Giovannino!» disse voltando la testa, improvvisamente animata e beata, e disparve nel corridoio. «Si amano, si amano! Sono innamorati forte! Bella cosa la gioventù!» E guardando in qua e in là, la nana parlava tutta sola, come sempre, anche perché nessuno le badava, ed Edoardo era sgattaiolato di nascosto della madre ad aprire la credenza per vedere il dolce. Profittando di quell'attimo, Dora Stassano venne vicino ad Anastasia e, guardandola con i suoi occhi ardenti come fuochi neri, con appena un filo di malinconia intorno, disse sottovoce: «Saluti da Laurano!» Di nuovo le campane ripresero a suonare, ma questa volta solo nella sua mente. Si pulì le mani piene di farina in un cencio e a testa bassa rispose fredda: «Ricambio. So che una volta ci tenevi il pensiero», disse Dora fissandola. «E tutti siamo stati giovani», rispose Anastasia. «Mi ha detto pure che uno di questi giorni, se aveva tempo, passava un momento. Può venire quando vuole, ci fa sempre piacere.» La Finizio, col lungo naso appuntito sulla pentola che bolliva, sentiva che intorno a quel tavolo, nel fumo e nel freddo di quella mattina festiva, c'era un'aria diversa dalla solita. Si rendeva conto che Anastasia Finizio, anche se il suo aspetto era quello apatico e serio di sempre, era turbata. Con una vera angoscia capiva che l'equilibrio, la pace della famiglia erano in pericolo se la colonna di quella casa si inteneriva. Avrebbe voluto scacciare Dora Stassano, ma non voleva urtarsi con Edoardo, e poi Dora era importante. Neanche era bene irritare Anastasia. Mortificarla doveva, ecco tutto. Mortificarla indirettamente, con delicatezza, richiamarla ai suoi doveri. Nel pensare questo doveva farsi forza per respingere un torrente di collera e un chiuso dolore. A questa era ridotta a mendicare dai figli che la soffocavano. Sorridendo si rivolse alla Stassano. «E Antonio come stava? Non viene a trovarci? Una volta veniva!» «Sì, sì, mi ha detto che un giorno viene!» le gridò in un orecchio la Stassano. «Ah, bene, bene!» disse la Finizio con una smorfia quasi di pianto. E vedendo, mentre girava gli occhi, che Eduardo aveva tirato giù il dolce dalla credenza e di soppiatto vi andava passando un dito, gridò con una selvaggia irritazione: «Fuori, svergognato, fuori!» Eduardo obbedì, beato, anche perché sapeva che quel grido non era diretto a lui, e uscì dalla cucina, tirandosi dietro Dora Stassano. «Ah, mi sento un'esasperazione oggi, chissà perché!» si lamentò la Finizio quando rimase sola con Anastasia. «E vi sarete stancata, mamma?» «Forse. Queste feste sono una fatica terribile. Se le godono solo i giovani. In quanto a noi, alla nostra età, non c'è più niente che possa portarci consolazione. Servire, servire fino alla morte, ecco quanto ci rimane. E tutto quanto facciamo è per gli altri». Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.